Perfetto, torna a sedere sul bordo della seggiola del lettino, piedi e ginocchia larghi come il bacino, seduta sugli ischi, mani appoggiate sulle cosce. Comincia lentamente a scivolare avanti varie volte col ginocchio destro. E ritorno. Perfetto, e adesso prova a fare la stessa cosa col ginocchio sinistro. Osservando se respiri e osservando la differenza che probabilmente c'è tra una parte e l'altra. Mi sembra più fluido il movimento A destra. a destra. E osserva se di fatto è il ginocchio e la coscia che scivolano avanti o le mani. Ok, riposa un attimo. Ritorna sul bordo ed ora ancora una volta muovi il ginocchio destro avanti come hai fatto prima e poi torna e comincia a mettere attenzione a cosa fa il resto del corpo. La spalla destra va in avanti, la spalla sinistra si sposta indietro leggermente e la colonna sembra che formi una specie di curva. Questo non è chiaro quello che mi dice. Nel senso che spingendo in avanti la coscia, la gamba destra, il ginocchio destro, la parte del bacino si sposta in avanti e le spalle invece rimangono più o meno nella stessa posizione. Quindi, cioè, mi dà l'idea, la sensazione che il bacino si sposti di più rispetto alle spalle, o perlomeno rimanendo più ferma la parte sinistra e spostandosi quella destra, ho la sensazione che la colonna faccia questo Movimento movimento. bombato, ok. Magari è solo una sensazione. No, no, continua a farlo e dopo vediamo dall'altra parte, magari poi dall'altra parte è diverso. E la testa osserva cosa fa. Si gira verso sinistra. Continua a fare il movimento, respira. Ok, e adesso provo a fare la stessa cosa con la gamba a sinistra, quindi scivolo col ginocchio sinistro avanti e osserva cosa fa il resto del corpo. Qua sono molto più rigida. senti più rigida. Ok, sì. Allora se da questa parte sei più rigida quando il movimento viene più piccolo, fallo in modo da non sentire il blocco e piccolo. Quindi fermati prima di sentire tutta la tensione. E osserva cosa fa la testa. Mi sposto leggermente a destra. E riposa un po'. Ok, torna seduta sul bordo ed ora unisci i due movimenti. Una volta vai avanti col ginocchio destro e tutto il corpo e torni, e una volta vai avanti con tutto il ginocchio sinistro e il corpo. Perfetto, riposo un po'. E adesso ritorna sul bordo, seduta, e questa volta quando muove il ginocchio destro avanti, gira la testa verso destra, come per guardare indietro a destra mentre il ginocchio e spalla vengono avanti. Ok, adesso fai la stessa cosa dall'altra parte, quindi muovi il ginocchio sinistro, la spalla sinistra avanti e girati a sinistra in modo da guardare al di sopra e al di dietro della spalla sinistra. riposa un po'. Dà fastidio. E lavora? Infatti. È un lavoro, ben detto. Bene, torna seduta sul bordo ed ora di seguito vai avanti una volta con un ginocchio e una volta con l'altro e con la testa guardi dalla parte del ginocchio che va avanti. Quindi vai avanti con ginocchio, spalla destra, guarda destra, ginocchio, spalla sinistra, guarda sinistra. E riposa un po'. Non dirmi. Bene, torna sul bordo, seduta sugli ischi, ed ora muovi il ginocchio destro come se uno ti appoggiasse la mano sul ginocchio e te lo spingesse indietro. E ritorno. Quindi ti viene spinto il ginocchio, il movimento passa attraverso il femore, e vai indietro e osserva cosa fa il resto del corpo. La spalla destra chiaramente va indietro, mentre la spalla sinistra rimane ferma. Rimane ferma? No, cioè nel senso si è ruota verso. Va avanti. E adesso fai la stessa cosa col ginocchio sinistro. Ti riposa un po'. Ok, torni seduta avanti e muovi indietro una volta un ginocchio e una volta l'altro. Indietro, indietro e ritorno. Ok, e adesso muovi la testa al contrario. Se il ginocchio destro va indietro, la testa va a sinistra. Se il ginocchio sinistro va indietro, la testa va a destra. E ti riposo un po'. E adesso torna seduta sul bordo e di nuovo prova a muovere le ginocchia una alla volta, avanti e ritorno, avanti il destro ritorna, il sinistro ritorna, lasciando che la testa segua il movimento. Osserva come viene. Ok, e adesso, prima di smettere, prova ad abbinare questo movimento a quello della lezione precedente, quindi da seduta sul bordo, guarda in alto e vedi fin dove riesci a vedere. Guardi in alto e torni guardando avanti. Mentre prima magari mi sforzavo ad arrivare dove arrivo adesso, adesso ci arrivo spontaneamente. Perfetto, adesso se vuoi ti riposi un po' e poi cammini. Se vuoi sì, se vuoi cammina pure, magari indietro, i primi passi, così rompi lo schema abituale del camminare e lo fai in modo diverso. E dopo un po' cammini avanti.